Den anderen auch die Katzefotos geschickt. Ich bin mal gespannt, wann die sich hier melden. Intende la Germania. Dimmi una cosa, Riccardi, non parlare, manda solo portare. Dimmi una cosa, guardati il Lampert che sta assorbendo l'apparato senza parlare, dopo lo dici, e guarda se c'è ventola in movimento. Quanti ampere? 20. 20 ampere, cavolo, quindi stai scendendo abbastanza. Lo regge l'alimentatore, quanti ampere dà quell'alimentatore? 28. 20 ampere sono tante, vuol dire che sta spingendo con la radio, però sento un rumore di fondo, di alternata, che poco fa non lo sentivo. È partita la ventola o che cosa? Sì, OG, dimmi. Ma ha messo un'altra radio Siria, EUG, diciamo un'altra cosa. Allora, sì, EUG. C'è un momento. È un momento, please. Ah, ho capito, dai. No, c'era un amico qua. Avanti. Go, my friend. Attention, please, do you copy Italy? Vabbè, volevo entrare, poi non entra. Ok, Riccardi, controlla se c'è la ventola. Non mi ha risposto. Sì, ti ho detto che non c'è innescata nessuna ventola. Ma hai spostato il microfono, sento un leggero ronzio sotto. No, non ho toccato niente. Aspetta, provo, si sente ancora? Il cavo del microfono è vicino all'alimentatore, solo lo spusti dall'altra parte. Poco fa questo ronzio non lo sentivo. Così, forse? C'è un pochettino sotto. Una domanda, quell'alimentatore dà 28 ampere massimi, tu adesso ne stai assorbendo 20. Positivo. E quindi stai spingendo abbastanza. Guarda la tensione, quanti volt sta erogando l'alimentatore? 13,5. E non sollevarlo di più di 13,5, stai molto attento che per sbaglio toccando col piede, dove c'è l'alimentatore? Sotto l'apparato o vicino? No, in alto. Boh, sanno che questo rumore non è fortissimo, però poco fa non ce l'avevi, dai. Okay. E quanto segna lo strumentino quando stai a portante muta senza parlare? Quanto? 9. Prova a parlare invece, quanto sale? 1, 2, 3. Radio. No, adesso è più basso. Come più basso? Quando parli anziché salire diminuisci. Aspetta un attimo, chi è che vuole entrare? Luca, tu sei? Quando scendo, sì. A Puglia, cavolo, non puoi più 30 a spaccare. Aspetta. Guarda come sei fischio, guarda, se sale il... Guarda, ho tanti muto, quanti sono hai fatto, guarda. Portante muta sei, 9,25 spaccato, quando parli arrivi 9,3. Ho capito. Aspetta, mio. Ok, 1 e 1 è stazionario. Però oh, Riccardo, quanto ti sta arrivando adesso? Prova ora. 9 più 15. Comunque Robè, invece no, ho sbagliato, è salito quando stavo modulando. Non mi piace questo ronzio, Riccardo. E boh, non so cosa posso fare. Tocca l'alimentatore se è caldo. Registrato un attimo. No, non è caldo, è freddo. Ma quell'alimentatore ha delle ventole o senza ventole? Ventola. Ok, non è partita ancora la ventola. Ok, avanti il blecco e poi riprende Eugenio, un attimo. Salve a tutti, Michele. Ciao Roberto. Ti volevo chiedere una cosa, Roberto. Ma ce l'hai anche tu queste scariche elettriche? Guarda, c'è delle scariche pazzesche. Se tolgo i filtri anche oltre 9. No, diciamo grazie a Dio ancora no, però sono previsti temporali in serata e anche domani, probabilmente tu sei più favorevole al disturbo in una zona un pochettino più in alto di me, magari lo senti meglio. Comunque sono previsti temporali, sono scariche, è capitato anche a me qualche volta, in questo momento non ne ho comunque. Noi ce l'avevamo anche ieri, adesso siamo ancora più forti, secondo me è la centrale che c'è qua di trasformazione, quella di cadere tensione, perché sono vicino, sicuramente, perché è una cosa più piatta, ma non è che... neanche 10 volte di meno, nel senso di qua proprio non sento nulla, senta appena appena Riccardino e... Cosa, okay. sono sordo. Poi, come va, sei sordo? Sì, va un po', ma tu non le senti di scariche un po'? No, perché io non sto usando il 140 o 180, lo sai che quando tu abiti qua vicino ci abbiamo problemi di scariche elettriche qua. Ci sono i tarifi a 15.000 e il casino è quello, hai capito? E aspetta quando incominciano i temporali, che senti le scariche elettriche, eccetera, eccetera, le macchine che passano. Ho dovuto vendermi il 140 e 180 per quello, non per altro, sennò non l'avrei mai venduto, la verità. Purtroppo col macchino normale non senti nulla, perché c'è i filtri, capito, ANL e NB. Invece il 140 e 180, l'NB 1 e NB 2 bu. Quindi la metà della scarica le senti per forza. Senti questo QRM 9910, poi senti a seconda del vento. Nicke, ma che cavo c'è? Cavo sottile? Ah sì, è l'entrometro a cavo, no? No, c'è anche la... Non c'è la sicurezza di rossetto, è assurdo, no? Ma è assurdo che non sta vicino alla centrale di trasformazione. Sì, sì, tipo una specie di alternata nel fondo, un ronzone. Adesso non è acceso, no? Se non vedi più. E c'è due figli. Anche io, sono qui. Sono anche regolato. Se tolgo tutti e due è... Sta modulando un altro, ti sovramodulano. Si trova a caffè forte, vabbè, anche a me sta arrivando forte. Avete parlato in due comunque, Michele. Ciao Ge, aspetta un attimino, chi c'era sotto, non so se era l'Italia avanti, chi era che parlava sotto Michele? Luca, tu? No, non so se mi sente neanche, mi senti Michele? Ciao Luca carissimo, certo, ti ho sentito giorni fa ma non potevo modulare, vi ho ascoltato un po' tutti, ma non c'avevo antenna, avevo un filo ma non faceva manco accordarlo perché... C'è tutto dentro casa, qua non c'ho stazione, dai, ho rispolverato un po' di roba, la metà l'ho trovata tutta bruciata, e questo funziona, quindi l'abbiamo messo un po' a girare. Luca, ripeto. Aspetta, io sono un po' rincoglionito, non mi ricordo chi sei, Michele, fai, non so se stai sbagliando Luca, non lo so, vai, via, avanti. Luca, Michele Falcone, un po' di anni fa, guarda che c'avevi il palmarino cinese, non so se te lo ricordi, c'avevi un portatile cinese. C'avevo il... Un palmare cinese, piccolino, un portatilino. Guarda che parlavo anche da Platamona. Mi sa che c'è un po' di Alzheimer, cavolo. Sì, Alzheimer. Sì, mi ricordo che questo che parlava da Platamona, vabbè, dai, scusa, sono rincoglionito, no, vabbè. Comunque ti ascolto bene, arrivi benissimo, Ah, sono fatto più un bel di anni, tu. Io ogni tanto vi ascolto col ricevitorino, ma tu non mi senti da un bel di anni. Sì, là, sicuramente, anch'io poi, vabbè, avevo mollato per un po'. Comunque mi ricordo, sì, Platamona, certo, cioè mi ricordo. Andavè, arrivi bene comunque, io per quanto riguarda quel rumore che hai detto non ne sento. Comunque io sono qua al monte, ho levato anche il filtro, non sente niente. Michele, aspetta, Riccardi, fammi sentire questa modulazione, io ripeto veloce. Scusatemi, non sta parlando l'italiano, avanti, Riccardo. No, non stavo parlando io, comunque sì, Eugenio mi stava chiedendo di questa modulazione e adesso sto parlando. Ah, ok, adesso va, sì, ok, dai, ti sento perfetto, alla grande. Bello, spinge di brutto, bello, qua ti sento proprio bene. È il furgone che magari ho la crollina piccola e non riesco a capirti, però qua è perfetto, perfetto. Ti prendo io un attimo. Stavo dicendo Michele, ma non è che c'è qualche apparecchietto dentro casa, qualche lampada a neon, qualche lampada a LED di quelle cinesi che non hanno nessun filtro, che molte volte possono creare delle interferenze? No, niente. Lo so, questi alimentatori. Lo fanno, no, tranquillo, carica atmosferica, ma perché la carica atmosferica deve essere qualche cosa legata all'acqua, all'umidità con la centrale che c'ho qua a fianco, e io penso di essere più vicino a questa centrale di volo, più vicino anche di pompone. Guarda che io c'ho un alimentatore di quelli cinesi, no, da 30 ampere, switching, sempre QRM, c'è dei disturbi, no? tumore hanno avuto questi disturbi. Praticamente ha segnale 3, però fastidiosi. Strano. E poi era quello. Qua adesso stavo usando quello da una tentativa da 25 ampere, che è un bel pesante. Quello dei cinesi fa qua, mi fa QRM, ecco. Sì, anche i monitor del computer, un sacco di cose lo fanno, ma questo non è QRM, questo è un segnale a 9 più, capito? Io stavo parlando a Tom, quando è che sì, abbiamo parlato, Roberto? E io dicevo QRM 0, 1, 2, massimo. Ecco. Sì, avanti, Becco. Ciao, Fabrizio. Fabrizio, a te stavo pensando. Allora, mi sta dicendo, Riccardino, senti un pochettino, io sento un residuo di alternata adesso, se parete adesso, c'è un assorbimento secondo me un po' troppo alto. Chiedi come dice, sta assorbendo 20 ampere, con la potenza che tra mi sembrano un po' esagerati. Ti rilancio, Riccardino, così verifichi anche tu, Fabrizio. Ciao Fabrizio, me l'ha ascoltato anche a te, comunque grazie. Me lo stanno dicendo loro, che Roberto me lo sta dicendo che ho questo rumore di fondo. Ma l'ho visto, è un problema di alimentatore, quello, un alimentatore secondo me che... un po' così, l'ho visto anche che dava anche addirittura parlando, sì, tutto il picchi positivo qua, però poi se ne scendeva in picchi negativo quell'alimentatore, immaginate un po' quel rumore di alternatore, un po' di alternata, ma non di apparecchio di alimentazione, fregate, lascialo così momentaneamente, adesso poi dovrebbero arrivare nei prossimi giorni degli alimentatori, quelli switch, e ne ho uno qua anche in preparazione, sto aspettando dei componenti, come ne metto a posto uno me ne arriva uno, tanto sono, guarda, danno 30 ampere ma vanno benissimo, te lo porto, dai, te ne do uno di questi, già, adesso non so se su ne ho qualcuno perché li tengo sempre di scorta, e poi quando magari ti arriva quando ti porto il microfono Fusaro, possiamo fare una cosa, tu me lo dai, te lo cablo sia per un baracchino, mi devi dire il modello, e in più ti faccio un adattatore per poterlo attaccare a quell'apparecchio, così magari provi anche un altro microfono, provi quel microfono, che con questa radio, con quella radio si sposa molto bene il MBF 5, l'avevamo già fatte le prove, e così dovresti spingere ancora di più e hai un vogli male, provi a togliere quel microfono e mettere quello lì, ti faccio un paio di modifiche, magari poi mi avvicino, quando ho tutto ti porto anche un altro alimentatore. Ok, grazie Fabri, gentilissimo. Allora facciamo riprendere adesso di nuovo a Eugenio, e comunque l'ascolti meglio, molto forte di segnale Eugenio adesso rispetto a prima, e Eugenio forse si è allontanato. Fabri, c'è anche Michele, probabilmente vi conoscete pure, avanti Michele per Fabrizio. Ciao Fabrizio, sì ci conosciamo, ma sicuramente Fabrizio non si ricorda di me, Falcone, mi ricordo quando modulava con Marcello Master di Porto Torres, mamma mia, una volta mi siete passati davanti con una specie di califone, tutti e due col portatile in mano. Ehi, vabbè, califone, lui ci va con un tenere mi sembra, 600. Ah, sta parlando di volto tempo prima, molto. Fabrizio. Di scuola del... sei in prima ragionieri, questa cosa era venuta qualche anno prima, quindi forse eravate alle medie. Non me lo ricordo, può essere, tutto può essere, a Marcello, l'altro giorno l'ho visto su Facebook e l'ho salutato, una vita che non lo vedevo, e lui è la madre. E ogni tanto a distanza di 25 anni lo vedo in giro, ci salutiamo, ma non l'ho più visto. Vabbè. Comunque complimenti per il parco antenne, c'è la casa vicino ai genitori della mia compagna, visto, bella antenna, bel calice, bel tutto. Ti vado a fare manutenzione. È abbastanza, la passione è andata avanti. Immagino, poi una volta che mi metti una cosa, poi c'è l'altra ancora, e poi stai sempre accordando, facendo, tirando, mamma mia. Tu le hai fatte anche bene le cose, quando le facevo io ho avuto qualche direttiva per i cinesi, qualche volta il vento mi accartocciava tutto, dovevo salire, ma non ci vogliamo neanche pensare, ho avuto la Delta Loop due elementi, quattro elementi viaggi, ma più piccoli di quelli che solo che vabbè, ero molto più vincello e azzardavo, ogni tanto il maestrale non la faceva pagare. Pomponio, ci sei ancora? A me pare le altre cose, sembra in uno stadio, tutto... Perché ci sono i nipoti adesso qua, capito? Quindi, comunque ho passato il microfono, a me non sono dentro lo stadio. Scusate, io che sono stato un po' lontano dalla radio per molto tempo, però vi ho ascoltato ogni tanto, ma perché non modulate tutti in FM? Prima c'è Riccardino, sicuramente lui lo sentirei di radio, no? Esce buono di segnale, però la radio non si sente, adesso c'è anche le scariche. Pure di Riccardino adesso sta utilizzando una radio un po' più evoluta, c'è anche qualche watt in più, c'è una bella antenna, qua arriva a 9.30 Riccardo. E oggi ci sei ancora tu? Qua è 9, ma la radio è bassa, vabbè io non faccio testa perché sto usando una LEN con base magnetica sul termosifone. Ebbene, sicuramente sta risuonando bene, ma è dentro casa, sono in una zona alta, una bella aperta, ma di più non posso chiedere. L'unica pecca che c'è questa centrale che sta facendo la friggitrice. Eugenio, ci sei ancora? Oggi c'era Calabria, poco fa, fortissimo, anche 9.20, arrivavano la Germania, non ho capito esattamente il posto, abbiamo fatto qualche collegamento, Santiago 9.95, arrivavano questi della Germania. Ok, si sta aprendo adesso verso il nord, prima era verso il sud, la propagazione adesso sta salendo un po' più su. Ok, Riccardo, prendete il bike, infatti quella alimentata, una cosa strana, Fabri, come mai c'ha tutto questo assorbimento, considerando quello che c'ha di erogando di potenza? No, secondo me non è reale quelle... Adesso non sto uscendo io, scommetti? Aspetta, non sto uscendo, aspetta, non sto uscendo, vero? Sì, 9.50, sei avuto. Ma sto uscendo anche di radio? È strano. Sì, sì, perfetto, non è cambiato niente qua. LCSVR, no, ho toccato io. Sì, ascolta, cioè, probabilmente no, ma non è reale quello strumento di quell'alimentatore. Infatti è assurdo, ho detto, se c'ha una ventina, 30 watt, 20 ampere, dovrebbe assorbire intorno ai 7-8 ampere, fai 10, esagerato. No, ma mi pare di 16-18 al massimo, no, non ha problemi. Problemi, non va bene, adesso io, guarda, me lo procurate voi, se tu ne hai uno glielo cablo per quella radio e poi nei prossimi giorni glielo passo e gli metto un alimentatore di quegli switch e in più il microfono amplificato e tolgo quello lì, che quello deve avere qualche problema, quell'MC60, adesso è senza amplificazione sta andando, capito? Se ne abbiamo un amplificato glielo cablo e prima lo provo qua da me e poi glielo do. Ah cavolo, no, pensavo fosse, quindi è pulito senza amplificazione quel microfono? Sì, praticamente è in out, in uscita, praticamente non sta amplificando, non amplificazione, non l'ho controllato bene, dai, quando l'ho ricablato, non sono stato a guardare sotto com'era e come non era, comunque sembrerebbe che quindi non sta amplificando quello lì, quindi praticamente sta uscendo con un microfono dinamico, come che sia l'MC50 praticamente. No, non sapevo, dai. Ok, per cui ancora meglio ancora. Se è così la situazione di Riccardo a Vuglia, per cui c'è possibilità ancora di migliorare ancora di più con la radio. Ok, no, pensavo l'avevate voi tenuto basso per non, diciamo, per non alzare troppo. Ok, quindi Riccardo, hai sentito i consigli di un maestro in materia, ti sistema un po' quel 60 e quell'alimentatore, infatti anche io avevo qualche dubbio, è impossibile che stesse erogando tutta quella tensione, poi di colpo è stato questo rumore di sottofondo di alternata, secondo me sta iniziando già a avere dei limiti con l'alimentatore, perché scrivono 28 ampere, ma i continui saranno una quindicina. Sì, esco, se tu qualche microfono c'è da prestare a Riccardino? Di 60 per il Kenwood non ho niente, c'ho soltanto un MB+4 o un +5, però bisogna fare le innesti. Sì, va bene quello, se ce l'hai che non usi io glielo cado, certo, guarda, io li ho provati, poi te lo faccio vedere la differenza. MB+5 o +4 va benissimo, poi quando non gli arriva l'altro magari lo può usare per gli altri baracchini e quello glielo cado. Se ne è uno e me lo dai, se te lo ricordi domani mattina te lo porti da te, passo io a prendermelo e glielo cablo, lo provo qui, quando è tutto a posto poi glielo do, così un attimino glielo porto, faccia da te a prenderselo, poi si regola la radio anche con Claudio, però no, gli voglio mettere anche l'altro alimentatore, uno di quelli che c'ho io. Adesso me lo metto in vista, domani mattina lo scendo in officina e poi Riccardo fai passare, vabbè, passa a Fabrizio, poi quando è coso me lo riporta qua Fabrizio, sono tanto tuo padre vicino e te lo do. Ok, ho capito. capito, sì, ma anche questo va benissimo. Vabbè, se mi volesse dare un più 4, un più 5, va bene lo stesso. Sì, no, facciamo una cosa, Riccardi, perché quell'alimentatore sta tirando fuori alternata, la sento da qua. Ti do un alimentatore switch, di quelli che si usano professionali, sono, si dice, dai. Se ne trovano, ormai li trovi, te li tirano dietro e vanno benissimo. E ne ho, guarda, ne ho uno qua che sto aspettando i difetti per ripararlo. Diciamo che mi appento a ripararlo, perché per quello che costa non ne valerà meno la pena. E poi ne devo avere uno o due tiri su, ma in genere i tempi scordano. Ho dato un altro paio, ah, no, forse ci sono anche arrivati, quindi ce lo devo avere su, uno in più. Ne ho più di uno, ma in genere uno o due li tengo di scorta, perché ogni tanto, quindi su probabilmente deve essere anche arrivato, devo solo guardare, lo devo avere un paio. Magari la prossima volta, in prossimi giorni, dopo che ti cablo quel microfono, passo io una mezz'oretta e ti collego il microfono e l'alimentatore nuovo, così siamo sicuri di tutto. Ok, va bene. Comunque Fabrino, mi ricordo una cosa, io adesso se voglio farmi un giro di tutti i canali, non mi ricordo come esco dal blocco 27. Allora guarda che lì c'è un tatto, CH, lo vedi quel CH? CH, dove CH? Di fronte a te, dove ci sono tutti i tattini. MCH, lo tolgo. Sì, se tu tacchi quello dovresti, e poi su c'è A o B, questo A o B. E vado su B. Sì, su B, così sei già, su B sei già praticamente su quello, e l'altro te lo lasci su là dove lo lasci in AM per poter girare i canali a mano. Ok, va bene. Quindi gli dai un colpo e si spegne la lucetta, si dovrebbe spegnere quella che c'è sui canali. Prova. Sì, si è spenta, ho tolto l'MCH. Va bene, quello lì quando lo rimetti è così, vabbè, quello lì è, capito? Quello lì. Io adesso mi comunque sta arrivando fortissimo, anche di radio, in confronto a prima sì, 100 volte non c'è paragone di radio, a parte il segnale, no Robè? Sì, assolutamente. Ha guadagnato 10 punti di segnale, la radio è un'altra musica. Quanto ti arriva a te Fabrizio? 9.30 mi sembra, vieni avanti. 1-2-3 prova radio. 9.30, e non c'è nemmeno bisogno di avvicinare molto la bocca a quel microfono, 9.30. Qua più o meno uguale. Ok, aspetta, volevo chiamare Eugenio se c'è ancora, perché si è allontanato forse. Avanti Eugenio. Nulla, avanti, come si chiama? Michele, avanti a te il mic. Sì, Riccardino quanti anni hai? Non so se mi ascolti. Riccardino è giovanissimo. Ti sento un po' a pezzettini, qualche volta sparisci. Comunque mi hai chiesto quanti anni ho? La voce bianca, ma più o meno 10 anni. Ti sento un po' male per colpa mia, perché ho delle scariche. 12-13. Ah, 12-13, ok, dai, non riuscivo a mettere a poco il personaggio. Io ne ho un po' di più, va bene. La voletta di coso, di... Bah, adesso mi sfugge il nome. Fabrizio, 68. E più o meno del 69, dai, più o meno lì. Esatto, più o meno, dai. Va bene, volevo chiederti una cosa, in questi giorni ho fatto un po' di esperienza con le stazioni che ci sono sul web, SDR, ho visto che c'è un sito come le stazioni europee, vabbè ce ne sono anche un po' spazi in tutto il mondo, ma io ho preso quelle europee, e sono veramente, veramente valide, ma ce ne sono alcune che utilizzano in HF quelle mini antenne, non so se le conoscete, le mini WIP. Praticamente un circuito elettrico, non che ci sta, ma ricevono da paura, soprattutto una frequenza bassa, cioè sembra una palla, ma è così. Ce n'è una in Olanda e a volte li uso anche per ascoltare gli italiani quando sono lì in 40 metri, 80 metri, 160, anche stazioni commerciali, magari militari che trasmettono in doppia frequenza tipo 10.000 30 kg. Con quel cavolo di antennine praticamente sono 40 centimetri. Tu hai mai provato qualcosa del genere, Fabio? Ovviamente solo per ricezione. No, ricezione no, non ho, io faccio attività e uso Quello del trentenne, no, ricezione no, ricezione non niente. Per il ricettivo c'ho le antenne, dai, non quando devo andare, quando devo fare radio, qui ascolto ne faccio poco, io quando accendo le HF entro per fare collegamenti, capito? Non, ultimamente sto facendo poco, la verità sono attaccato a questa radio, sto facendo riparazioni, roba del genere, poi avevo avuto dei problemi e quindi per un annetto ho dovuto smettere, poi adesso ho ripreso ed è da un po', quindi ho attaccato un po' di, ho rimesso un po' tutto a posto e piano piano sto iniziando a fare un po' di radio, compatibilmente con gli impegni. Beh certo, no ma sai, è un mondo nuovo, io non le conoscevo queste cose, infatti queste antenne servono solo per ricevere, poi talmente e comunque danno delle soddisfazioni notevoli, perché c'è una stazione che trasmette, che trasmette ciò che riesce a ricevere tu il tuo ricevitore online, questo per 70 infatti. Ma con questo cacchio di antennino ovviamente è messa bene sul tetto, anche dal tetto alla terra, ma devi vedere cosa tutto porta dentro il ricevitore. Buonasera. È incredibile, perché tutte per quelle frequenze così basse che hanno bisogno di estensione, parliamo di oltre più di 170 metri, poi 160, 80, 70, 20, e portano tutto bene dentro, sembra incredibile. E poi ho visto altri progetti di antenne che sullo stesso funzionano molto bene. Però vabbè, bisogna collaudarle, provarle, io diciamo, c'è più tempo nel spazio, vabbè, magari hai letto qualche cosa tu, Robert. Ma tu parli di ricevitori remoti, quello olandese, io sì, quello lo conosco. Bravo, quello lì per esempio, ma ce ne sono tanti validi, quello lì usa una mini whip antenna, è un circuito che è con le piste, dai, con due o tre componenti, ma una cosa di 40 centimetri, 30 centimetri. Sì, ma c'è anche, se tu noti, c'è Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, c'è anche i CB, la banda CB degli 11 metri, lo trasmettono normalmente in USB o qualche volta in FM, ti puoi collegare, c'hanno delle stazioni remote di lì, in zona di Roma, Latina, Rieti, diciamo interessante. Quello olandese è veramente bello, è fatto bene, poi c'è, se tu entri nelle applicazioni, diciamo nelle parti interne del menu di quello che sono tutte le stazioni mondiali, di qualunque parte tu ti scegli la zona, indichi per dire Sardegna, ti dà l'elenco di tutte le stazioni che trasmettono, potenza eccetera eccetera, ubicazione del trasmettitore eccetera, soprattutto le broadcasting, che io ascolto tutto diciamo in generale, ma interessante per le broadcasting, ti c'è anche la potenza d'antenna, quanti intensità di campo elettrico eccetera. Esatto, sì, io ti dico, l'ho visto anche quelle cose, le ho provate, ma ce ne sono tante valide come quella olandese. Roma 4, qualcosa ha ascoltato Roma 4, ma in Italia non sono a livello, allora in Italia ce n'è una bellissima in Sardegna di un radioattore, mi sembra di Cagliari, di quelle parti lì, che praticamente ti mette a disposizione il, come si chiama, il satellite Q100, quello geostazionario per i radioattori, non so se l'hai ascoltato. È veramente un bijou quella stazione, ti metti lì, tu ascolti tranquillamente, poi tra l'altro puoi fare la cellulare, non è che devi stare a casa davanti al PC, puoi ascoltare direttamente dal cellulare, vedi se c'è traffico, se ti ascolti tutto quanto, poi non c'è motorizzazione, quindi ti arriva tutto quanto da 10 giga. Sì, infatti interessante, molto interessante. Proprio parlando di quello, anche io la chiavetta in settimana devo portare a un amico qua che sta sulla 27 e mi modifica la chiavetta a quelle RS32, non mi ricordo come sono, si chiamano, lo che fa, quella ti fa da 0 a 1007, sono quelle chiavettine che potevi vedere la televisione digitale su computer, c'è un software che te lo modifica e fa un ricevitore con le contropalle, con tutte le possibilità possibili e immaginabili, e funziona più che bene. Sì, vabbè, io ho la chiavetta ma non la uso perché non c'ho antenna da collegarci, così. L'ho presa così per vedere come funziona, e in effetti è una bella cosa, non costa niente, c'è un ricevitore da 0 a 2000, poi vedi lo spettro di almeno 5 MHz, 10 MHz se non ricordo, vedi esattamente dentro 10 MHz cosa si muove, vai, ti metti sopra e ascolti, cioè cose che vedi da un apparato che costa migliaia di euro. Ormai si sta collegando al USB, comunque, no, quel satellite Q100 è veramente bello, tra l'altro per i radioattori dovrebbe essere anche una cosa poco costosa, perché ho visto i transverterini che si trovano già, fa l'uplink, il downlink te lo fai con una parabolina, è un convertitore da TV satellitare. Io ovviamente non ci devo operare, però lo ascolto via web, è interessante, i segnaloni sono tutti chiari in USB, provo ad ascoltarlo cucendo. C'è un radioamatore, vabbè, c'è una stazione SDR, un ricevitore a disposizione a rete, si può ascoltare tranquillamente anche dal cellulare. Sì, lo conosco, però non sono entrato, l'ho solo visto, ho visto la possibilità di ascoltarlo, però infatti mi ha colpito questo perché era sardo, sì, in Sardegna, non ce ne sono molti in Italia, forse ce n'è uno a Firenze, ho visto, poi un altro giù nell'Alta Italia, ma ce ne sono pochissimi per quel tipo di ascolto. È un satellite che è stato messo dai radiatori del Kuwait, per cantarlo, dico, ho Kuwait o cantarlo. Sarà costato un pacco di soldi, è giusto qualche radiatore di quel posto, poteva spenderci a mandare un satellite geostazionario. Già per il fatto che geostazionario vuol dire che sta a 35.000 km dalla Terra, quindi la voce sta a un percorso di 70.000 km, scusa se è poco. Sì, sono satelliti molto piccolini, sono di dimensioni molto limitate, diciamo, però portarli su ci vogliono soldi, certo non lo fa un radioamatore normale, e in Qatar già non mancano i soldi, sì, l'ho visto, lo conoscevo questo discorso qua, sono satelliti che hanno dimensioni di decine di centimetri, diciamo 50 centimetri, non hanno niente a che vedere su quei satelliti per telecomunicazioni, quelli che utilizziamo normalmente o per usi civili o per usi militari. Ok, vediamo un pochettino, se non monopolizziamo, facciamo riprendere qualcuno se vuole entrare subito sul 10, se no ritardo prendi tu il mic. Avanti 10. Bu. Chi è questo? Secondo te che sono bu. Ah, tu, no, fate ogni tanto cambi baracchino, tu bu. No, avevi fatto passare il microfono, sentivi un sacco di casino, adesso se sono andati i miei fotti qui. Adesso posso sollevare. Ehi, allora facciamo riprendere a Riccardino, che io adesso tra poco vado via, mi mangio qualcosa, poi eventualmente se ci siete ancora rientro. Dai, avanti Riccardino. Anch'io vado in carica, comunque ci sentiamo più tardi, non domani. Ciao a tutti, tanto comunque mangio in fretta e ritorno. Ok, buona carica Riccardino. Buon tutto. Una domanda, Fabrizio. Dimmi, tanto anch'io sto per spegnere che me ne vado tutto qua, dimmi tutto. E forse ci siamo parlati sopra poco fa quando stavi parlando di microfoni. Allora io mi sto battendo per domani scendere giù l'MB più 5. Una domanda, lo alimenti dall'apparato o glielo alimenti con la batteria sua? Sì, alimento dall'apparato, devo passare a prendere un po' di cavo e dovrò cambiare il cavo e ce l'alimento dall'apparato. Ma gli fai un adattatore al connettore a 4 poli che ho io o cambi direttamente il connettore? No, lì escono 4 fili, vero? Sì, qua sono 4 fili. Escono 4 fili più la calza o compresa la calza. Penso ci sia la calza, sinceramente non me lo ricordo questo. Non ce l'ho neanche sotto mano per aprire, cioè ce l'ho sotto mano sì, però non c'ho niente per verificare. Scusate, scappo, devo scappare. Saluto tutti quanti e a presto. Ehi, ciao Michele, alle prossime. Ciao Michele, ben sentito, alle prossime, dai, quando vuoi, già siamo qua. Ok. Ciao Michele, ci sentiamo. Buona scarica di calice anche a te, benvenuto nelle vicinanze, diceva questo. Ascolta, fai la bravo con un po', se no vengo e ti scappo, aspetto l'antenna, io. c'è proprio da aspettare la mia antenna qua, se non si aspettano da sole con questo vento di questo periodo di scirocco, cazzo. Mi ha parlato poco di roba in giro, cassonetti, di tutto, uno è arrivato quasi dallo spin. Vasco, facciamo una cosa, no, non lo cambio, al limite faccio uscire solo, senza così non cambio il cavo, faccio uscire solo il cavettino per l'alimentazione un cavetto forse devo far uscire, rosso, faccio uscire un cavettino e lo alimento dall'esterno, senza fare grosse modifiche, niente modifiche, da dentro devo solamente, vedo un attimo di non fare modifiche, però gli devo cambiare il connettore. Vabbè, poi quando eventualmente poi si rimette l'altro con la 4 pull. Sì, prendo, se nemmeno ci saldo dentro, prendo il... Sì, tanto ce li ho anche in euro un po', ne ho comprato di quei cosi, come si chiama, per gli attacchi della batteria 9 volt. Ma con l'attacco a 9 volt ne aveva due cose, come si chiama, Riccardino, uno te l'ho messo nel microfono, l'altro ce l'avevano loro. Riccardino, gli ha dato a Fabrizio? No, no, ma non ti preoccupare, ne avevo qualche decina di quelli, ne ho Matteo, non ti preoccupare. Dai, domani passo a prendere il microfono e... perché se gli lascio quello lì gli posso, no, non viene male, mette il doppio, niente, cambio lo spinotto, dai, e poi quando sarà glielo rimetti, dai. Poi vediamo. Ok, dai, adesso vi lascio, dai. Ciao Fabrizio, ciao Riccardo e tutti gli eventuali qua amici, ciao Antonello, gli amici in ascolto, dai, io faccio corretti, poi dopo se ne vuole rientro, ma sarà un po' difficile. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, corretti anche da parte mia, passo domani, amici Roberto, ciao ciao. Ciao a tutti e due, ci sentiamo, buona Pasqua, felice caro, anno nuovo, buon Capodanno. Buona cera, barrate. Ciao ciao, io ho cenato, ciao ciao. Ciao ciao. Buon Natale. Buon Natale anche a te. Caspita. Aspetta, mi sta chiamando Simone da casa. Sto per fuori in casa questa. Sono quelli vent'anni esaurita, zeta Fabio. Gloria, cari salve. Sta a posto. Mi ha messo un capo in mezzo ai coglioni, sì, Alessia, nell'ingresso, per andare in bagno, guarda, se non me la cogo ci butto il computer e tutto. Stava per sentire la batteria, non arrivava, stava caricando il telefonino, è arrivata e via. Ha cacciato il computer, sta facendo il programma nuovo del computer, capito? Lo sta aggiornando, perché non so cosa capo gli ha combinato e gli si è cancellato tutto, quindi sta di nuovo riaggiornando il computer. Non mi ha messo il capo in mezzo alle palle, no, non mi ha accorto che c'era il capo in mezzo in corsi. Se passa, sì, si muove per sbaglio e la trovo in terra. E tra il portone, capito, dove c'è il barattino e il salone, in mezzo. E quindi sbarra la strada per poter entrare in bagno e in camera da letto. Certo. Anto, ma com'è questa radio? Buona, perfetta. Questo è il cartolino, il nuovo radio. Esce bene, esce bene. Adesso magari io li applico il microfono a quel giocattolino, li metto dei felici delle FM500S. Così esce bene. Sentiamo con il microfono della base, con la cattura, perché c'è due in quale? In quello monogatto piccolino? Cappa. Lo aspetto, devo fare con le sì, sì, esce bene. È strano però, perché io ho messo a capsula il condensatore e non ha funzionato, però il dubbio mio era... Se io ci metto il microfono normale dell'FM500S che è 600 ohm, gli avrei se me l'accetta, il discorso è quello. E quindi adesso, siccome c'è il microfono uguale, per non stare a metterci le FDC ci metto... Anzi faccio prima, mi stacco la capsula dal microfono normale dell'FM510. Lo provo nei fili di quello lì, così non... Se è vero che funziona, mi metto il microfono normale dell'FM500S e se la pia in Napoli. Tanto a me la padana non mi interessa. Oh, ho capito che c'è un microfono da regalarti, un microfono da carino, anzi se ti faccio la foto te la mando a e dice una tattua molto carina, secondo me, molto molto molto, secondo me vola con quella tattua. Oh, penso di sì, non lo so. Vabbè, c'ho anche in quel barattino c'ho gli autobus per alimentare l'amplificazione, hai capito? E stavo pensando, se ci metto il microfono amplificato e gli cambio il cavo, gli metto il cavo a 6, io sono a posto, perché mi alimento direttamente dal barattino stesso l'alimentazione del microfono. E così utilizzo il microfono amplificato, c'ho quello con l'eco, io c'ho, che ce l'ho giù la Giovanna, adesso non mi ricordo come si chiama, ce l'ho lì, e posso alimentare quello. e sono a posto, se la piglia in culo a un certo punto. Così non sto a metterci batteria né niente, perché tanto c'è l'alimentazione molto grossa, esce da baracchino, non mi sa che ce l'hai anche tu, ah no, tu non ce l'hai, tu c'hai lo spirito da qua. Mi stavo dimenticando. Sto a posto, sto raccomandando. Lo porti io, WhatsApp. È aperto WhatsApp, è aperto, ogni tanto mi scrive qualcuno a ver se gli do soldi, è sta fresca. Aspetta, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la avuto questo qua, mi avevo messo una... Avevo lasciato la tazzina, ci avevo messo il, come si chiama, la sopra, il coso sotto, la capsula grossa, quella del telefono. No, questa qua c'è già una capsula strana, che è bellina, c'è una capsula molto carina, e niente, secondo me non è male con la capsula, capito? Secondo me va bene da provare, come si dice. Se no bisogna trovare una come questa che ho io adesso, che stai ascoltando, che è studio 800, perché io mi dà 500, a 600, non mi dà 800, e guarda come si è accordata bene questo baratino piccolino. Io mi sento una bella radio, poi tu me lo dici. Già ne ho capsule già, c'ho quelle capsule dei videocitofoni, cioè presente, delle cornette del coso, del telefono, di quei telefoni della CPV, quindi figurati tu. Ha voglia capsule che ne ho, se te ne servono, ma lo dici già te le do. Io so, M600 è quello che è. Però una cosa te la puoi fare, se ne hai voglia di farla. Io ho un microfono di quelli che si mettono in negozio, capito? E ho tolto la capsula, e come l'ho staccata mi è rimasta in mano, fanculo a me, era una bella capsula. Però il circuitino che è alimentato a 24 volt ce l'ho, in pratica ti schiacciavi, capito, venga, vedi, il signor Totto è pregato di andare al banco dischi, hai capito, per dato vedere, il microfono riccio. Ce n'è uno, è grande quanto l'M600, forse anche più grande ancora. Te lo cerco, te lo modifichi e così almeno lo utilizzi in casa, ti fai il microfono da tavolo, qualcosa, col piedino te lo fai, per mettere la portante. Sono qua, non c'è problema, quando tu mi hai chiamato e dovevo lo spin, figurati, stavo facendo una spesa, non potevo neanche chiamarti. Adesso sono a casa, cavolo pure, se esce meglio di ieri, non c'è problema. Si accende l'aria ma sei basso. E radio quasi uno. Però il segnale 9:20. No, sempre basso. ma c'è altra cosa, qualche altra cazzata c'è, te lo sto dicendo io. Perché c'è qualche altra fesseria, c'è, comunque si sente, ma sei basso, capito? Molto basso. Comunque non è come ieri. No, è molto meglio ieri, è più chiaro la verità, non c'è quell'effetto là. Quel così ferrite è tutto a posto, sì. Hai contato se sono, se combaciano? Allora no, no, sinceramente non ho controllato, però quello è il lavoro che si poteva fare. Prima quando mi arriva a benzina, non so. Copre benzina, non so. No, io non so. Però se poteva fare, non so, fare il problema, forse. Yeah. mi sono fatto quel casino. Non ce ne hai antenne di macchina, te ne installi una nella, in una macchina o nell'altra e ti agganci direttamente il cavetto. Ti compri un miscelatore per autoradio, capito? Per CB e cosa, l'autoradio che si è a posto. E ti fai l'attacco, con l'attacco statistico che prendi e moduli, capito? O la gamba dove ti pare ti piace. Conviene fare così. E quella che c'hai, quella che ti ho dato lì, te la tiri a casa provvisoriamente, finché non ti stabilisci del tutto, diciamo, va. Però, di macchina già ne hai, già si possono modificare, basta trovare i basamenti che li vendono. Una GBC, una Fusaro, basta che c'è la base, se c'è gli stili non è quello il problema. L'unica cosa è la sua partita, ma se c'è problemi di condominio purtroppo è quello il problema, capito? Perché devi passarci il cavo all'interno in mezzo al cavo TV e quindi diventa un casino vero, diventa, capito? No, per carità, non voglio fare questa cosa. Sono di là a me, ci sono passato parecchi anni in marita per queste cose, gloria, la carità, quando vedo anche le baracche da sopra immediatamente sei tu che disturbi, capito? Adesso perché non fanno le prove per le frequenze nuove, non possiamo fare nulla, intanto stanno sempre cambiando, adesso fra poco spariranno i canali normali, quindi ti chiameranno, dice non vedo più i canali, non vedo canale 5, canale 1, canale 4, canale 1, canale 2, canale 3, vedranno solo gli altri, se c'hanno soldi li vedo di chiaro, se soldi non ne hanno ciao buonanotte, spariscono tutti, anche la 1, delle G e tutte quelle sono le varie che ci sono, canale 12 e ti lavo i voli, capito? Perché cambia totalmente il tipo di trasmissione, quindi sono obbligati tutti, anche a cambiare amplificatore perché va talato la seconda dell'antenna HD. Davvero? Via! Davvero? Via, ciao Luca, buonasera. Via. Vabbè, ciao Fabio. Vabbè, sono un mal di collo, questa è una vecchiaia, Emi. Buonasera. Sì, io lì faccio del più good, ma così, allora, Pompo, ma di quando parlo, perché i positivi ci vuole un po'? Prova, 1, 2, 3, prova. No, segnale fisso e fesso, rimane lì fermo, la radio è alta, come ce l'ho io, tale uguale. La testa, c'è lo Smith, vuole un po'? Allora, questa è una parata particolare, quello che ho detto dopo anche segnale. Ma quello che sto parlando non sono tutte, perché sono 10, AM, come c'è la distanza. Nell'altro sono libero più che negativo, ma libero quasi a tutti. Il fatto che si muova anche in distanza, vuol dire che secondo me l'altro tipo positivo c'è. Sì, perché sono 15 watt, portante muta, 20, 22, 23 modulati. Sì, sì, sì. sensore, non ha fatto un po' lungo, quindi ho fatto un impatto a 9,80 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio, vai. C'è prova radio o no? Prova segnale. Tutti gufi sono andati tutti, capito? C'era un CB una volta che parlava tutto così, cazzo, lo sai, abitava in via Umberto, sopra allo studio di del costruttore che ha costruito questi palazzi qua, c'era l'antenna massata, e parlava tutto balbuziente, a forza di sentirlo mi veniva anche a me di balbuziare, a far cura a lui. Vabbè, capita, ogni tanto già si stecca parlando, va. Ma non riesce a dire la parola, allora. Io mio amico è balbuziente. Vabbè, se ci vuoi fare purtroppo. Andà a B. Avanti fa, riprendi. Un attimino arrivo subito. No, poi vai veloce, io conosco un tecnico che fa tutto da quel lavoro che è babuziente, fa lavoro nel condominio dove sono io, no? E quando sono vengono così, a forza di sentirlo mi viene anche a me, a volte mi, ma è come se tu per dire, parli, vedi una spagnola, parli con una spagnola, ti viene anche a te di parlare spagnolo, hai capito? Brigade Bregde. Avanti, Riccardino. Ok, va bene. Sono appena entrato, tranne voi c'è qualcun altro? Certo, io, Fabio e Luca del Monte. Luca del Monte ha detto sì. Ciao Riccardo. Ciao Fabio. Bella Ricca, cosa stai maturando in stazione? Lasci piano, piano, che ti percorrerebbe la valenza. Lo so, sto facendo il passo più lungo alla gamba. Con calma, non calma che devi capire. Capire tutto, ogni cosa, cose che posso dire che vedo una piccola. Però ce la fai capire. Con calma. Capisci le persone che fanno tutto, capisci? Ok, no, ero entrato per vedere se c'era Roberto, gli devo chiedere una cosa, o a Fabrizio, gli devo chiedere una cosa del microfono, e pensavo che c'era, visto che sono mancati pochi minuti. E va bene, allora glielo dico via messaggi, scusate se sono entrato disturbato, questo io, e ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao Riccardo, ci sentiamo allora. Già, dove passare a te Fabrizio, non mi ricordo se hai detto domani, ha portato il microfono, quindi non lo so. Va bene. Io ci ho messo 15 anni a farmi la stazione, come si deve. Riccardo ci ha messo 2 mesi e mezzo. Io la vedo, passione e su di nave c'è va quello. No, è Popucci. Ciao Tony, E allora? Allora, provato lei con l'aggeggio che ti ho dato. Eia. Guarda un po'. Cazzo, quanto di cattino sei? 9,25 qualcosa. Ma col tasso indietro cosa fa? Aumenta ancora di più. Ehi, col tasso indietro aumenta di più, ti segna quasi 200, però non mettercelo di lì, perché dovresti diminuire il watt, quindi mettilo normale fino hai capito, come ti ho detto io l'altro giorno. Però cazzo aumenta, da 7 a 9,25 è parecchio mio con quei va. Sta lavorando bene con la valvola. Ma perché ti arrivo 7,7 io? No, ma da liscio. Allora, lì ci sono così, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, 7, 9, 10, lo stavo sbagliando io.